Letture di Radio 24. Con le piogge d'autunno spuntano i funghi e i venditori d'ombrelli. Ma quest'anno c'è una novità. Mai più vecchi e fragili ombrellini pieghevoli, quelli che si rompono dopo pochi giorni e che finiscono ben presto nei cestini pubblici appena finito il temporale. Ora sono in commercio eleganti parapioggia tutti d'un pezzo con buon tessuto e impugnatura di legno. La falsificazione cinese ha fatto un salto di qualità anche qui. È arrivato un bastimento carico di ombrelli. Ve ne sarete accorti da 2 mesi in qua nel corso di questo piovoso inverno. L'Italia è stata invasa da un nuovo tipo di ombrelli di fabbricazione cinese. Non più i soliti ombrellini pieghevoli, retrattili, a cannocchiale, che durano una settimana o al massimo due e poi sono da gettare via. Ora sono apparsi degli ombrelli dall'aspetto solido, elegante, sciccoso. Manico di legno, apertura a scatto, tela in nylon robusta e, segno particolare, una striscia che li richiude con il velcro su cui, in quasi tutti i casi, è scritto un nome. Nel mio, Susino. Anche il colore è inconfondibile. Violetto, nero, bordeaux, con una banda bianca vicino alle stecche, a volte di pochi centimetri, a volte più ampie. Le parti metalliche sono cromate, color ottone, e un'etichetta ovale applicata sul legno del manico ne ribadisce la marca. Il nome, sempre di pura invenzione, fa il verso agli stilisti italiani. Sono sicuro, anche senza aver fatto nessuna ricerca specifica, che ne devono essere arrivati parecchi container, magari a Napoli, per poi diffondersi lungo tutta la penisola. Merce che è offerta nei mercatini rionali, nei negozi delle varie Chinatown italiane, oppure dai soliti venditori ambulanti, arabi, magrebini, senegalesi, cingalesi. Come nella pagina iniziale, oramai proverbiale, di Gomorra, il container dondola mentre la gru lo appoggia a terra. Galleggia in aria. E i portelloni mal chiusi si aprono di scatto. Invece dei corpi congelati dei cinesi che vanno a farsi seppellire in patria, cadono giù gli ombrelli, chiusi, non aperti. Precipitano al suolo, me lo sto immaginando, migliaia di parapioggia di legno tornito che i venditori ambulanti, spuntati dal nulla appena le gocce d'acqua toccano il suolo, vendono a 10 euro l'uno, trattabili fino a 7-8 euro. Del resto, come dar torto ai misteriosi produttori cinesi, l'ombrello l'hanno inventato loro, o tutt'al più i giapponesi. Così ora in tanti camminano per strada sotto la pioggia con il loro ombrello aperto, un riparo più ampio e signorile dei precedenti parapioggia, contenti di aver pagato così poco un oggetto che appare, a suo modo, di lusso. Ma come ogni cosa imitata, anche questo Susino ha il suo punto debole. Si stacca il manico di legno dopo qualche tempo. L'altro giorno ho visto nel bidone della spazzatura il primo morto della guerra degli ombrelli. Decapitato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'ombrello chic è made in China, a firma di Marco Belpoliti e pubblicato dalla Stampa del 17 gennaio. Letture di Radio 24. L'Aquila quasi 2 anni dopo. Il celebre antropologo e architetto siciliano Franco La Cecla ci racconta le sue impressioni visitando la città dell'Aquila ormai quasi 2 anni dopo il tragico terremoto. La Cecla ci racconta di una città diffusa, sparsa tutto intorno la provincia e la periferia, dove luoghi apparentemente dispersi si umanizzano e si riempiono di una nuova linfa vitale. Ogni volta che torno qui rimango impressionato da 2 cose. Una quasi permanente e una fluttuante, nascente. La prima sono le montagne, adesso innevate, questo coro di dolci vette che circondano una terra di colori ambra e marrone, una Scozia nostrana di pecore, borghi sui crinali, trattori ostinati. La seconda cosa, fluttuante, è che questo posto d'Abruzzo, questa provincia d'Aquila, è diventato un luogo on the road. Quelle che erano le piazze sono diventate le stazioni di benzina, i bar lungo la statale, quelli che erano il corso lungo il quale si facevano le vasche, oggi sono circonvallazioni umanizzate da uno sciamare di giovani che si ritrovano tra pub, luoghi riaperti, fiere, bancarelle e vinerie. Sembra di stare in una provincia americana. L'abitare si è diffuso e l'Aquila è ancora il centro ideale, ma di un sistema territoriale che viene percorso continuamente in macchina da chi vuole ritrovare amici, colleghi di lavoro, occasioni di discorsi e di progetti. A me l'insieme dà l'impressione di una freschezza altrove rara in Italia. Un'energia che viene proprio da quell'imprevisto terribile che ha scompaginato strutture e sistemi e che costringe la gente che è rimasta a reinventarsi. Mi sembra anche che questo dopoterremoto, con la città ancora disabitata, ma teneramente ricolonizzata ogni notte dai giovani che pretendono di vivere le piazze e i palazzi transennati, come se tutta l'Aquila fosse una Berlino da scuotare, mi sembra che riveli uno stato delle cose mai evidente come adesso. I giovani che incontro sono per buona parte in diaspora altrove, dispersi tra università italiane e straniere, alla ricerca di occasioni quasi impossibili. Però anche prima l'Aquila era una provincia trascurata dai grandi flussi, ma hanno acquistato una nostalgia mitica. Raccontano di angoli perduti per sempre e di vicoli dei primi meeting artistici e politici importanti. Raccontano una città che non c'è più, ma che loro hanno imparato a innalzare a mito. La novità è che loro portano qui l'altrove, come ad esempio fanno due personaggi che incontro, Angelo Imperiale ed Elvira Di Bona. Uno filosofo tra Milano e Barcellona e impegnato fino ai gomiti nella ricostruzione, l'altra filosofa della mente e violinista dottoranda tra Milano e Sydney. L'altrove è per loro l'apertura di uno spazio di discussione, di una rivista che si chiama, non a caso, Crack, dalla canzone di Leonard Cohen, There are cracks everywhere, this is the way the light comes in. Ci sono crepe dappertutto, questo è il modo con cui la luce si fa avanti. Insomma, l'imprevisto del terremoto è diventato un paradigma metodologico, una provocazione epistemologica. Ovviamente non tutto è rosa. Angelo ed Elvira me lo raccontano. Sospetti degli architetti locali. Immobilismo totale di istituzioni. Il peso sul groppone degli insediamenti provvisori privi di qualunque collegamento all'Aquila e alla sua storia. Ma in queste sere gelide e nitide, fra il vento del velino che soffia sotto i vestiti, c'è un'energia di base che promette bene. Un'energia europea, direi. Di giovani che non si illudono di restare qui per sempre, ma che non rinunciano a essere di qui. Da questi crack, da queste screpolature del reale, è possibile vedere prospettive che alla compattezza della normalità sono negate. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'Aquila rinasce tra il futuro e la nostalgia di Franco La Cecla, pubblicato dal Sole 24 Ore di mercoledì 12 gennaio. A Napoli non sanno liberarsi dei sacchetti di immondizia, ma pare che con i rifiuti ingombranti siano bravissimi. C'è un servizio gratuito dell'azienda dei rifiuti che ritira sotto casa gli oggetti ingombranti di cui i cittadini vogliono liberarsi. Basta chiamare il numero verde e prenotare il servizio. Facile, no? Eppure le strade di Napoli sono piene non solo di spazzatura, ma anche di materassi. Napoli. Quello che più inquieta è l'indolenza. Ci sono talmente tante cose che non vanno in città che ormai non utilizziamo neppure quelle che funzionano. Un esempio? I rifiuti ingombranti, l'unico settore in cui l'ASIA lavora, anche se con qualche ritardo, su segnalazione dei cittadini. Esiste un facilissimo numero verde che si trova sull'avanti elenco. Tu chiami e ti risponde una signorina garbata che ti chiede di che tipo di oggetto intendi disfarti e ti indica l'ora e il giorno in cui abbandonarlo sotto casa. L'unica cosa che ti chiede di fare è apporci sopra un codice fornito apposta per te. Facile, no? E funziona. L'ho provato sulla mia pelle. Prima dell'estate dovevo gettar via un tavolino di vetro. Feci tutta la trafila e il giorno stabilito lo collocai accanto al portone del palazzo, ripromettendomi di uscire sul balcone a controllare ogni tanto lo stato delle cose. Me lo rubarono. Già. Due ragazzi che passavano di là lo sollevarono di peso e se lo portarono via. Li vidi che ormai erano troppo lontani, anche solo per urlare. E vabbè. Nei giorni di Natale ho seguito lo stesso iter per liberarmi di due paia di vecchi sci. Stavolta il ritiro ha subito un ritardo di due giorni, durante i quali gli sci sono rimasti paralleli sotto il palazzo come in sosta fuori a una baita. Ma erano giorni di festa, ritardo più che giustificato. Un paio di giorni fa il mio dirimpettaio ha gettato un tavolino di legno. Puntuale come un orologio svizzero, il camioncino dell'Asia l'ha rimosso all'ora debita. E allora mi domando perché mai in città giacciano così tanti materassi abbandonati. Un mistero. I napoletani, che popolo, mica sfruttano i servizi, no. Sono così disabituati a riceverne che quando qualcuno gliene offre uno funzionante, diffidano al punto da non utilizzarlo neppure. Povero popolo. martoriato dalla storia, dalle ingiustizie, indolente e apatico per necessità. In compenso, se cammini per strada a Napoli e all'improvviso sei stanco, hai sempre la possibilità di trovare ricovero su un materasso all'angolo della strada. Gesti di filantropia dei napoletani. Un materasso? Può sempre servire, magari ai turisti. Lasciamolo qua. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Butti un tavolino e lo portano via, il materasso invece resta dov'è?» a firma di Ilaria Puglia e pubblicato dal Riformista dell'11 gennaio.